Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau. Io penso di essere diventato con l'età avanzata notevolmente spudorato, quindi sono un discreto ficcanaso nei luoghi segreti delle donne, anche perché sono molto curioso. Ce n'è uno però in cui non oserei mai mettere nemmeno un dito, è la borsetta. Voi direte perché? Che è la borsetta. La borsetta per me è qualcosa di inviolabile. Me ne accorgo questa mattina uscendo di casa, suonava il telefono dentro la borsa di mia moglie appoggiata in una console all'ingresso, mai aprire quella borsa anche semplicemente per prendere un telefono e consegnarglielo. Perché? Perché sono stato educato male o sono stato educato benissimo? Sin da bambino mi è stato detto, inculcato in mente, con presidi arroventati, fatto capire che io mai avrei dovuto mettere mano nella borsetta di una donna. Mi dicono, qual è il luogo più inviolabile, più segreto, è impossibile, mai si guarda nella borsa di una donna. In effetti non ci ho mai guardato. Ho avuto amico, ho avuto fidanzate, ho avuto mogli, ho avuto compagne di viaggio. Non ho mai osato guardare nelle loro borsette, mai, anche se ne avessi avuto necessità, anche se lì ci fosse stato il farmaco salvavita e lei stramazzata a terra dicendo, apri, ti prego, dammi la medicina. No, non ce la faccio, non posso, è qualcosa in cui non posso mettere le mani. E mi domando ancora perché. E ancora mi rimane un po' di curiosità di capire, di vedere, di sapere perché. Provo a raffigurarmelo, perché secondo me nella borsa una donna, non mi sarei mai spiegato altrimenti perché le donne non girare con degli zaini, quando noi giriamo con quello che abbiamo in tasca e siamo più contenti, più che felici, a parte alcune cedimenti al borsello, l'uomo ha poche cose in tasca, perché avranno i trucchi, avranno le cose che a loro servono per farsi belle, avranno alcuni oggetti per usi tipicamente femminili che richiedono uno spazio notevole, avranno cose che noi non è dato di sapere. Probabilmente l'ultimo recesso del gineceo, del luogo inviolabile, di ciò che permane e appartiene soltanto alle donne dentro la loro borsetta. Infatti le borsette sono favolose, infatti un giorno mi sono comprato una borsetta, l'ho messa come soprammobile in una console a casa mia e la guardo, è bella, forma di pomodoro, e direte, scemo, se hai comprato una borsetta, una cosa da donna, perlomeno una borsetta mia, dove posso guardarci dentro, la posso tenere lì, è quasi il simulacro dell'inviolabilità, della porta che io mai oserei oltrepassare riguardo al segreto della femminilità. Beh, questa mattina io vorrei che voi mi raccontaste cosa avete nella vostra borsetta. Ve lo chiedo perché vorrei morire felice sapendo cosa c'è nelle borse delle donne. Lo intuisco, lo immagino, posso pensarlo, qualcuna me lo sta dicendo già su Facebook, perché io ho annunciato un'ora fa esattamente che avrei fatto questa trasmissione e mi stanno arrivando i più infami, i più terribili messaggi. Perché? Perché vogliono solleticare la mia fantasia. Loredana mi dice bigliettini vari, scontrini, appunti personalissimi, profumo e un paio di mutandine pulite appositamente messe in un asettico sacchettino per garantirne la freschezza e pulizia, puntini, puntini, puntini, per ogni evenienza. Claudia mi dice, è una cosa che non è un segreto troppo prezioso, non te lo possiamo dire. Daniela, un'altra Daniela, medicine, fazzolettini, documenti, lima per unghie, pinzette, luci da labbra, cipria, sigarette, accendini, specchiette, calze di ricambio, ago e filo, forbicine, soldi, cellulare, penne, salviette, profumino, vari dépliant, chiave di casa, macchina con doppioni. Ecco, questa dice, Mary Poppins mi fa una P, puntini, puntini, A. Vabbè, non c'è problema. Nub, non ci guardo dentro un sacco di tempo, quando bisogno, voglia di qualcosa ci infilo la mano, ravano un po' e escono le robe inutili e dilettevoli. Poi cominciano a mandarmi le fotografie, me ne è arrivata una inquietante, con un coltello svizzero multilama e un rossetto purpureo da cui che fuoriesce da un contenitore metallico, sembra quasi un ammunizionamento da obice della prima guerra mondiale. Beh, questa mattina non gratuitamente vi chiederò di farmi questa rivelazione, ho sotto mano il fior fiore dei libri in fiamme. Quanto c'è di meglio della libreria infame che abbiamo a vostra disposizione, mirata per un pubblico femminile, come ad esempio Carne arrabbiata, le 101 bugie che ci raccontiamo in amore, Maionese impazzita, abbiamo dei libri fantastici. Darò libri infami a chi veramente questa mattina sciorinerà la sua borsetta e racconterà per filo e per segno ciò che contiene. E vediamo cosa c'è dentro. Chiavi della mia macchina, chiavi di casa, una bottiglietta d'acqua, non esco mai senza, salviettine intime Cilli, sono sempre utili, assorbente, non si sa mai. Poi c'è il mio portafoglio, fazzoletti vari eventuali, scontrini, ricariche, campioncini di crema, fanno sempre comodo da portare dietro, burro cacao, due burro cacao anzi, un lip gloss trasparente, l'accetto per capelli e mollettone, colore giotto verde. Ah, scontrino della revisione della mia macchina, figuriamoci. Poi una spazzolina, un laccettino che qui ci posso attaccare il mio cellulare, questa pochettina di Sephora microscopica, il mio correttore, un campioncino di blush, un ombretto della Essence color panna, poi ancora 2 centesimi, una limettina per le unghie. 800 24 00 24, per le donne cosa avete nella vostra borsetta? Semplicemente ditemelo, perché so che c'è un insieme di segreti dati da necessità, da presidi, da cose utili, da cose futili. Porta fortuna, sassolini, biglietti di tram, reliquie di incontri amorosi, c'è di tutto. E per gli uomini dovete dire, le volte che l'avete fatto, che avete osato farlo, che avete sorpassato questo limite invalicabile profanando la borsetta di una vostra moglie, amica, compagna e fidanzata, cosa vi avete trovato o se avete mai fatto. Il premio naturalmente è un libro infame. Mi è venuta anche questa idea perché in questi giorni a Parigi c'è proprio una mostra fatta da un videoartista, un fotografo, Pierre Klein, e un sociologo, che hanno messo assieme il contenuto della borsetta di 50 donne consenzienti che hanno sciorinato il contenuto delle loro borsette, l'artista le incollate su dei grandi pannelli fucsia, il sociologo ci sta scrivendo un libro, Les Sacs, un petit monde d'amour, che uscirà fra un po', dove ci sono tutte le interpretazioni degli oggetti che stanno in queste borsette. E vedere questi grandi pannelli fucsia con gli oggetti e le borsette sciorinati, improvvisamente sembra che esploda un mondo imploso, un mondo che a noi non era dato mai di conoscere e vedere, perché una donna ci può far vedere tutto, ci può mostrare ogni suo più intimo recesso, ma la sua borsetta è qualcosa di più, è qualcosa che appartiene al suo passato, al suo presente ed anche al suo futuro, è qualcosa che non ci appartiene. Gabriele, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a lei. Lei era allora nato nella borsa di sua moglie. Ma per causa di forza maggiore, perché non si fa dunque, però non si fa. Lo so, ma in sua presenza ad ogni modo, in presenza anche di testimoni a questo punto, devo essere veramente... Ah, infame, sottile, cattiva, sì. Vede la punizione. Praticamente siamo tutti e due fumatori, lo so che non si fa, però purtroppo è così. Tant'è che io per tanti anni usai vari Zippo, perché lei odia, diciamo così, l'odore della benzina sulla sigaretta, ma per un semplice motivo, perché mia moglie è praticamente criptomane. Ma lo faceva per cattiveria di usare lo Zippo? No, lo facevo per una causa di forza maggiore, perché altrimenti lei rubava tutti gli accendini possibili e immaginabili che si... E poi lo Zippo richiede che si porti dietro anche il bombolone della benzina, perché finisce subito. No, non è così complicato, basta semplicemente una lattina. Sì, però bisogna, bisogna portarsela dietro, che finisce subito. Vabbè, comunque ci sono sempre dei bic e delle cose così di ricambio. Ad ogni modo, un giorno... Come lo accendeva lei lo Zippo? Perché c'era una... In che senso? Ah, facendo, scoccando le dita, insomma, all'americana. Ah sì, cioè, no, strusciandoselo sui pantaloni, ha solo con le dita. No. Vabbè, no, scusi. Anche perché se si ha dei pantaloni, diciamo così, non dico ripreso, ma qualcosa, un tessuto... No, sono stato nel mio passato uno zippista anch'io. Andiamo avanti. Bene, allora, praticamente, cosa è successo? Succede che eravamo a pranzo, c'erano degli amici, e non c'era un accendino dentro casa per accendere una sigaretta. Non ce n'era più uno. Ho detto, per favore, mi fai vedere un attimo, si chiama Nina, se mi voglio, mi fai vedere un attimo se magari viene qualcuno in borsa. Sì, guardaci pure. Abbiamo ribaltato la borsa, ne aveva dentro 23. Io anche mi preoccuperei, però, perché... Anche sì, anch'io. Da dove li prendeva? Non lo so, tutti quelli che aveva ravanato in casa, praticamente. Ma se lei usava lo Zippo, non erano i suoi, scusi, No, era il periodo in cui io non usavo più lo Zippo. Sì, adesso ci giri intorno. Usava lo Zippo. Sua moglie aveva 23 accendini di provenienza dubbia sconosciuta, quindi... No, di provenienza domestica, assolutamente. Sì, c'era scritto. Vabbè, insomma, sì, no, alcuni erano veramente, alcuni erano di amiche rubati sul lavoro perché avevano delle forme di bisogni molto particolari mai visti in casa, insomma. Sono quelli tipici da donna e non li vediamo mai. Esatto. Vabbè, Gabriele, lei ha fatto una brutta azione, quindi non voglio iniziare premiando una brutta azione. Andiamo avanti, 800240024, vediamo se qualche ascoltatrice ha coraggio di descriverci la propria borsetta. Intanto andiamo avanti con le descrizioni prese da YouTube. Questo è un porta cebalgina, appunto, lo danno con la cebalgina, è comodo. Una bustina per non mi viene la parola, per i bisogni del mio Duncan. Quando fa il bisognino io porto sempre queste buste, la raccolgo e la butto. Sono l'unica in zona che raccoglie la cacca del proprio cane perché nessun altro lo fa. Sono due bastoncini, cioè così, affarini di plastica che ho fregato in un bar. Sarebbero delle decorazioni dei cocktail. Io però li ho visti, appena li ho visti mi è venuto in mente sapete quando si usano le matite come fermacapelli? Ecco, poi ho... Allora, mi stanno arrivando molti messaggi scritti che descrivono con dovizia e sincerità le cose che contengono. Francesca, le borse delle nostre ascoltatrici, matita per occhi, lucida labbra, micro smalto, mini limetta, gomme, fazzoletti intimi alla calendula per ogni evenienza, un assorbente nel caso, blocchetto, note, penna per annotare cose, pennetta PC, scatole di acido follico e baci quelli li manda a me. E dunque, mi sembra di capire, ecco, abbiamo già delle ascoltatrici pronte a raccontare, perché però si possiamo trovare noi delle macro aree di oggetti da borsetta che definiscono quello che è, diciamo, il quotidiano delle donne. A seconda del tipo di relazione che ha una donna, del tipo di vita che fa, di professione che fa, anche l'età che ha, anche i luoghi deve attraversare, ha oggetti costanti nella borsetta. Io vedo molte che mi stanno dicendo che portano coltelli nella borsetta. Questo, ecco, già per me è un elemento nuovo. Che le donne portino coltelli nella borsetta, se coltelli, anche se coltellini, anche se coltelli multilama, già un elemento nuovo, è qualcosa che mi sorprende. Tutto l'aspetto legato ai presidi igienici, assorbenti, via dicendo, che sembra, che secondo me è il vero motivo per cui mi dicevano da piccolo, nella mia gioventù maccartista, che non bisognava mai mettere le mani nelle borsette delle donne, fa parte del trascurabile bisogno comunque di questi oggetti. Ma mi sembra che la cosa più interessante sono gli oggetti e rituali, quelli che non ci aspettiamo di trovare nelle borsette delle donne. 800240024. Adriana, buongiorno. Buongiorno. Vede, mi sta andando via la voce dall'emozione che sto scoprendo il segreto che tutta la vita avrei voluto scoprire. Cominci. Allora, niente, io ho il portafoglio, l'acqua, i fazzoletti, il cellulare del mio e del lavoro, gli occhiali da vista, gli occhiali da sole, i chewing gum, e ho solo, l'unica cosa che ho di diverso è una noce che col guscio che mi ha portato a casa il mio cagnolino anni fa. È un cagnolino che non ho più, che però mi porto dietro in tutte le stagioni, in tutti i momenti, in tutte le borsette. Ecco, lei comincia a confermarmi allora quello che era una tesi di premessa. Si dividono in grandi sezioni, in grandi aree, gli oggetti nella borsetta di una donna. Gli uni sono quelli dedicati al trucco, alla bellezza, all'aspetto fisico, che mi sembra che vi accomuni un po' tutte, cambierà sì. La marca, cambierà l'oggetto. L'altro sono i presidi tipo sanitario, ecco, che vanno appunto dagli assorbenti, molti dicono la mucchina, i disinfettanti, le salvettine. Diciamo l'aspetto a seconda della stagione. Della stagione, no? Del momento e tutto. Poi entriamo nell'area delle cose personalizzate, i portafortuna, gli oggetti, le piccole fotografie, le cosettine dei bambini che una mamma si porta dietro, questi hanno già la barba e i baffi e ancora la mamma c'ha dentro, non so, la calzettina, il giochino, l'accettino che gli ricorda il bambino quando era piccolo. Sì. Io ho visto ciucciotti girare per casa quando i miei figli già mangiano le bistecche con le mani. Mi conferma questa cosa, Adriana? Sì, è così, sì, ci sono delle cose dalle quali non puoi prescindere, te le devi, la giornata è migliore, cioè se non ci sono manca qualcosa, quindi... Ma lei ogni volta che cambia borsa travasa tutto questo materiale? Sì, travaso tutto, escluso, ci sono delle cose che cambiano a seconda della stagione, ma queste cose assieme alle chiavi di casa e della macchina non ci sono in tutte le borsette e in tutte le stagioni. Vabbè... Adriana, mi sarebbe piaciuto un po' più di verve, ma visto che lei ha cominciato, iniziato, è la prima che ha il coraggio di raccontare queste cose, penso che sia giusto e sia anche gradevole, anche per dare un buon esempio agli altri, uno stimolo alle sue colleghe, di gratificare questo suo coraggio. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Sarà l'orgoglio della tua biblioteca! Allora, l'ascoltatrice Adriana, che per prima ha cominciato a rivelarmi il segreto innominabile della borsetta di una donna, raccontandomi della sua noce che da anni si porta in borsa, noce che gli riportò il cagnolino e che probabilmente è il più tangibile segnale della sua esistenza, regalo il libro infame di Carlo Simoncini, Carne arrabbiata. I preti che vivono di carne morta. Non so cosa significa, è un bel libro della Garzanti che la farà felice. Bene, è anche bello grosso, quindi può appesantire la sua borsa nelle giornate ventose. Grazie. Bene, grazie. Grazie, buona Arrivederci. Giornata. Arrivederci Adriana e andiamo a Monica. Monica, buongiorno. Buongiorno a voi e buona giornata di sole, finalmente. E quindi dalla borsa le togliere degli oggetti legati al clima piovoso? No, assolutamente. Nella mia borsa stazionano regolarmente oggetti dedicati ai cani. Ai cani? Ai cani, assolutamente, perché oltre ad avere tre cani, sono anche una volontaria canina e quindi porto sempre dietro una ciotola portatile per l'acqua, un guinzaglio che non si sa mai di trovare qualche cagnolino sperso, qualche boccolino. È la sua speranza trovare dei poveri cuccioletti tremanti e batuffolosi da poter salvare. Francamente, se non ce ne fossero in giro vorrebbe dire che gli abbandoni non esistono più, quindi sarebbe una gran vittoria. Ma forse però se li mangiano magari, è meglio che trovarli abbandonati. Purtroppo capita molto spesso e quindi, cioè, grazie a Dio abito in una zona dove non capita così spesso. Quindi la sua tipica, la tipica borsa della signora canara, che c'ha tutto, dal sacchettino. Della canara, esatto, assolutamente, la perfetta canara, esattamente. Beh, lo sa che la fase successiva sarà girare con un ulteriore borsone con dentro pezzi di pane, ossa, bistecche, andare a portare le ciotoline come fanno le gattare, sarà questo il passo successivo. Le gattare sono più facile perché le colonie feline sono, diciamo, ben dislocate, eccetera, eccetera. Il cane tende a essere viceversa abbastanza o messo in canile, soprattutto qui al nord. Comunque, diciamo, nella borsa della signora dedita agli animali c'è una prevalenza di oggetti dedicati al mondo animale che al mondo umano, ecco. Sì, anche perché del mondo umano ci sono proprio le classi, cioè una roba di una noia mortale, perché comunque il solito portafoglio, chiari da sole, le solite cose, ecco, diciamo. Ecco, la canara ha anche dei presidi, diciamo, mentre tutte portano cipria, rossetto, matita, la canara avrà uno spray che allontana da lei un pochino anche quel meraviglioso e fantastico odore di cane bagnato che molte volte rimane impregnato. No, diciamo che il cane bagnato lascia indubbiamente una cosa, un profumo che è difficile da togliere, per cui non basta solamente un profumo che copra il profumo del cane, perché sennò diventa una roba un po' nasebonda, quindi bisogna avere pazienza che passi. Comunque il kit è la perfetta canara, va bene Monica, grazie Monica, grazie Monica. Marilu. Eccomi, intanto Nicoletti volevo ringraziarla perché mi ha dato occasione di vedere cosa c'è nella mia borsa, perché era da molto tempo che non ci mettevo il naso. Ah, ecco, c'è anche questa cosa che mi piace capire, che ci sono le stratificazioni, ci sono donne che a forza di travasare di borsa in borsa, e quando il travaso, si sa, le borse sono piene di piccoli ripostigli segreti, non tutto passa, dopo anni si ritrova una vecchia borsa e dentro si trovano oggetti che ci raccontano un passato che forse volevamo anche dimenticare. Sì, esatto, io tra l'altro sto usando questa borsa da circa un mese e mezzo e ho visto che si è incredibilmente riempita. Tra l'altro, lo dico per la mia esperienza, non importa quanto sia grande la borsa, io la riempio sempre a culmine, per cui ho imparato ad usare borse più piccole, perché le borse più grandi alla fine le riempivo troppo. E quindi intanto per parlare di quello che ho trovato qui dentro, è stato già citato il gel antisettico per le mani. Sì, quello è un classico. Di trucchi sparsi, ho trovato un paio di cracker sacchettini di cracker spappolati, perché chissà da quanto tempo sono dentro, e una bella bustina, diciamo, di bustine pronto intervento, dalla cibalgina per il mal di testa, mal di stomaco, mal di gola, uno spray, matite spappolate. E di incredibile ma vero, ho trovato una roba che non sapevo nemmeno di avere, non so di chi sia nemmeno stesso, perché cuscinetto, leggo, cuscinetto anti-shock in gel trasparente, una sorta di plantari che non avevo mai visto, per cui... Qualcuno ha lasciato nella sua borsa dei plantari gonfiabili che lei non, di cui lei non sì, sapeva l'uso. Assolutamente, non ho idea di chi siano, e io di certo non... Ma perché numero di scarpa sono? C'è scritto il numero? Ma guardi, guardo subito, ma credo che siano una sorta di, come dire... misura universale, sono molto consigliati per calzature, dice, chiuse, aperte e tacchi alti. Che lei non ha mai acquistato, lei non ha mai acquistato questa roba? Assolutamente no, e non so. Qui si apre un mistero che avrei introdotto misteriosamente, quale segnale sarà e quale segnatura occulta della borsetta inviolabile della nostra ascoltatrice sarà aver introdotto questo plantare a sacchetto di gel nella sua borsa. 800240024, ci sentiamo tra un istante, continuerete a descriverci il contenuto segreto delle vostre borsette. Cosa ho dentro? La prima cosa è una cosa orribile, sono i miei calzini sporchi che... mi sono portata ieri a casa per lavarli, insomma, la busta paga di questo mese, una Morositas, uno spray alla propoli che ogni tanto uso, insomma, per fluidificare la mia gola. Oddio, sto sotto così, sembra un po' erotico, porno soft, vabbè. Un piccolo mascara, e un Lucia Labbra, la crema per le cuticole, un piccolo rossetto. 800240024, questa mattina non me ne pentirò mai abbastanza, ho chiesto di raccontare cosa è nascosto nelle borsette delle donne, sono veramente sommerso da messaggi soprattutto su Facebook di donne che elencano nei minimi particolari tutte le cose che hanno nelle borsette, e il commento probabilmente più adeguato a quello che sto vedendo lo fa l'ascoltatore Luca, che scrive su Facebook: il mondo della borsa di una donna è infinitamente più profondo e intrigante, passa dall'ovvietà assoluta, come stiamo assistendo finora tranne qualche caso, ed è vero, alla sofisticazione inimmaginabile per la mente di un uomo. Andiamo donne, aprirsi a voi le borse. Sì, in effetti è vero, vedo che in ogni descrizione delle borsette e nella apparente banalità di oggetti di uso comune prevedibilissimi esiste sempre una nota additiva di malizia e di detto e non detto, di sottinteso, che vorrebbe farci capire che lì veramente è nascosta la quintessenza, la chiave indecifrabile della femminilità, che deve avere comunque una sua coda oscura, una sua coda umbratile, se no altrimenti se si vede tutto, si immagina tutto, si sa tutto, non esiste questa sorta di profondissima attrattiva. Vogliono farcelo capire, farcelo credere, farcelo vedere, intravedere, ma non ce lo vogliono dire esplicitamente. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. A lei cosa è accaduto? Lei fa parte dei ravanatori di borse altrui. Sì, purtroppo sì. No, l'unica cosa che mi è accaduta di simpatico è che tornando da una vacanza in Campania, ci siamo fermati a Roma in agosto, durante il mattino avevamo visitato la città e mia moglie mi ha dato la borsa. Il problema è che era molto pesante, dentro, oltre alle solite cose, alla fine della giornata ho trovato dei sassi, tre sassi abbastanza grandi, e aveva portato via dalla spiaggia di Appositano che avevamo visitato. No, pensavo che avesse saccheggiato il Foro Romano. No, assolutamente no, erano dei sassi rotondi, erano molto belli, li aveva preso su in spiaggia e messi nella borsa. Il problema è che alla fine della giornata è stata una cosa terribile, perché non sapendo cosa c'era dentro la borsa era veramente pesante, era uno zaino supplementare. E quindi lei è stato costretto a portarsi questi sassi, ma i sassi poi una volta tornati a casa sono stati depositati? Sì, una volta tornati a casa sono stati depositati, fortunatamente sì. A parte oltre a sassi c'era anche altra roba, c'era ad esempio mia moglie, quando andiamo fuori, è successo in quel caso lì che ci ho trovato anche il phon dentro, per dire. Beh, il phon è indispensabile, certo, soprattutto penso a batterie, così pesa di più. Ha capito? Sì. La sento un po' giù, guardi, voglio darle una mano questa mattina. Complimenti, hai vinto un libro infame, colmerà il vuoto dei tuoi scaffali. All'ascoltatore Andrea, costretto a portare borsate di sassi e di phon da una moglie crudele, vorrei attribuire il libro infame di Silvio Valota come litigare e vivere felici, spunti creativi per trasformare le relazioni e farsi rispettare. Penso questo l'aiuterà a tirarsi più un pochino su di umore, Andrea. Grazie, buongiorno Paola. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca, ciao. Eccomi qua. Lo sai che hai scoperchiato l'inferno con questa trasmissione? Ma finora non ho scoperchiato niente. Guarda, io ho vissuto 50 anni nella curiosità di sapere cosa ci fosse mai nelle borse delle donne. C'è tutto quello che io mi aspettavo. Mi aspettavo innominabili e fantastici marchingegni. Mi aspettavo presidi che nemmeno esistono in tracce scritte, per quanto siano indescrivibili. Ma normali cose, una piccola farmacia, un negozietto di trucco e parrucco, sassolini, roba da cani, non so, vediamo se tu mi sai stimolare allora, un po' più. Senti, io rientro nella categoria delle portatrici di amuleti. Ah, cioè ecco, beh, già qualcosa, che, sì. Sì, che hanno una scorta di amuleti perché non si sa mai. Io qui davanti ho quattro pietre, un quarzo, dei denti di gatto, un'ametista e un pendolino da radiomantia. Cioè i denti di gatto gliel'hai presi personalmente? No, sono caduti. Ah, cioè quando il gatto ha perso i dentini li mette sotto un bicchierino e gli arriva regalino, come no, funziona? No, non gli arriva proprio un bel niente, però me li prendo io perché... E cadono i denti ai gatti, non lo sapevo. Certo, sì, se non ce li mangiano li trovi. I dentini da latte del gatto? Poi ho una... Che schifo, una specie di... Ma come sono i denti dal gatto? Con la radice dietro? Sì. Dei dentini certo. Come quelli degli umani, solo appuntiti piccoli? Sì, esattamente. E dove li tieni? C'è un contenitore? È una scatolina meravigliosa. Porta denti di gatto? Esatto. E quanti poi ne hai? Ho due. E quelli portano bene? Trovate a cui ho dato particolare importanza e garantisco che per tipo? Quanto le signore possano fare le gnorri, nelle borse delle donne c'è sempre un amuleto. Ma quelle altre cose che hai trovato cosa sono? Sono delle collane, poi qui ho anche, guarda, un rosario buddista preso non so dove, una moneta... Sì, perché secondo me molto spesso sentiamo il bisogno di portarci dietro qualcosa che vi porti fortuna. Che ci protegga. Quindi questa è la tua diciamo fattispecie originale rispetto alle altre. Io trovo nei denti di gatto qualcosa di veramente nuovo. Vediamo chi riesce a rilanciare un amuleto più singolare rispetto all'ascoltatrice Paola, che si porta i denti del gattino e per questo merita un premio. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Hai qualcosa da lanciare nelle liti domestiche. All'ascoltatrice Paola, terrore di tutti i gattini quando la vedono avvicinarsi con le pinze e scappano via a gambe levate, regalo il libro di Antonio Mancinelli, ma vale in quanto a una prefazione di Lella Costa, Finalmente libere. 45 più donne raccontano come si sopravvive ai 45 e più anni, Sperling e Kupfer. È un libro 44, che... mi serve moltissimo. Lei quanti anni ha? 44. Ecco, fra un anno questo libro le sarà utilissimo, quindi glielo do molto volentieri. Fra un anno forse dovrà rinunciare ai denti di gatto e passerà, chissà, alle zanne di pesce cane o qualcosa più adatto alla sua nuova età. Grazie Paola. Maddalena. Maddalena? Pronto, sì? Eccomi Maddalena, vediamo lei se ci riesce. Dunque, io ho una borsa molto grande e che ci porto? Ci porto molta tecnologia. Innanzitutto il mio iPad, un computer, una piccola telecamerina, l'iPhone e il BlackBerry. Vabbè, lei ha un centro broadcast portatile dentro la sua borsa, cosa fa di mestiere? Faccio il manager di un'azienda. Ma con questo ha una grande necessità di controllare i suoi dipendenti? No, ho una grande necessità di essere in contatto. È sempre reperibile, sono quelle che c'ha sempre un telefono acceso che suona mentre un altro è attaccato all'orecchio. Esatto. No, insomma, non proprio così, però... Sempre con il pollicione a girarlo sulla rotellina del BlackBerry. Esatto, sì, esatto, queste immagini. E con la telecamera che ci fa? E con la telecamera si fanno le video conference. No, quelle basta, è sufficiente l'iPhone, la telecamera riprende, non fa le videoconferenze. Ah, diciamo la webcam che l'attacca al computer, questo vuol dire? Scusi, sì, ho la webcam e sì, che attacca al computer. E ci fa le videoconferenze. Esatto, ma è un mix tra attrezzature di lavoro ma anche personali. E attrezzature di piacere, beh, questo abbiamo capito, è chiaro. Sono strumenti, sono protesi relazionali. Quindi la tecnologia prevale nella sua borsetta? Direi di sì, ha iniziato a prevalere nel corso degli ultimi anni. C'è stata anche una mutazione all'interno della mia borsa, devo dire. Mutazione in che senso? Cambia la foggia, la forma? Ho iniziato a dover pensare di più alla funzionalità che all'estetica, o comunque a combinare estetica e funzionalità. Ecco, ma diciamo, oltre questo côté tecnologico nella sua borsa, rimane qualcosa di arcaico, antico, analogico, dedicato, non so, a se stessa, i banali trucchi, cipri e belletti? Ovviamente, cioè tutto questo si è aggiunto, ecco perché parlo di mutazione, si è aggiunto a quello che tutte le donne portano volte. Vabbè, Alessandra ci fa capire che esiste un upgrade tecnologico nelle borsette delle donne. Mi chiede Francesca su Facebook, e spero che qualche uomo mi aiuti a dare risposta, che vuole, ma c'ha ragione, è perfettamente lecito. Anche la controparte. Lei vuol sapere cosa tenevano gli uomini nel borsello negli anni 70, cosa oggi ancora quelli che hanno il borsello ci tengono dentro. Io mi ricordo che allora il pettinino con custodia era uno degli oggetti maggiormente contenuti nel borsello. Unti e bisunti pettinini dentro delle custodie di finto coccodrillo. Era la cosa più schifosa che portavano gli uomini nel borsello. Poi quelli che volevano darsi aria da grandi amatori, da compulsivi copulatori, portavano una scatoletta di quelle antiche di, diciamo, presidi farmaceutici per la prevenzione di indesiderate gravidanze, con quelle scatolone bianche, grandi, ridicole. E se li portavano dentro, fra di loro, quelli che li davano sotto, quindi c'erano sempre dentro il borsello. Porta spiccioli della camomilla, bellissimo, con dentro lo specchietto, questo me l'ha regalato mia zia. Degli spicci random, buttati qua e là quando mi venivo a letto. Parfum chocolat. Io non parlo il francese, non lo sopporto, non sopporto il francese come lingua, e se devo parlare il francese è solo per prendere in giro i francesi. E questo, senza offesa, però mi fa schifo come lingua. E questo è profumato al cocco, e mi è stato regalato a Natale da una mia compagna di classe. Sacchettini per i bisogni del cane, poi abbiamo il premio per il cane. Sto dando un'occhiata agli sms, cosa faccio raramente, mi scrive un ascoltatore che ha un negoziante di scarpe, non riesce a resistere a sbirciare dentro le borsette delle sue clienti, è molto curioso. Poi mi scrive un'ascoltatrice un sms che un pochino mi dà un certo fastidio, però lo leggo. Sei sempre iperbolico e guardone, insisti su assorbenti e slip con gusto, sei frustrato, ne sono certo. Ma veramente, le farei dare un'occhiata a quello che mi stanno scrivendo le signore, descrivendo le loro borsette. Mi sembra aver insistito molto, era uno dei primi messaggi che mi era arrivato e mi aveva un po' colpito. Sempre questo senso di prendere la libera espressione del pensiero senza censure e senza porsi problemi per una sorta di capacità o desiderio di indulgere sugli aspetti morbosi, non è così, vi assicuro. Poi pensate come volete. Bruna, buongiorno. Buongiorno. Oh, finalmente una che lo ammette. Cosa c'ha nella sua borsa? Io, allora, ho il solito di ogni donna, quindi oggetti per il trucco, quindi il pettine, i fazzolettini. Ormai saltiamoli questi, sono stati detti. Sì, andiamo solo alle cose non dette. Allora, quello che ho sempre porto con me è una rosa secca. Una rosa seccata. Sì, che mi hanno regalato l'estate fa da una persona che spero di ridare al più presto. Ma la vuole restituire? Sì, vorrei restituirla perché purtroppo questa rosa che questa persona mi ha dato, appunto, non è ciò che io pensavo fosse. Cioè si è appassita come si è appassito il vostro amore? Sì, è rimasta molto bella, nonostante fosse appassita, una rosa molto bella. Però sembra quasi è così bella che sembra come se fosse vera. È rimasta mummificata con me, con un bel cartoncino così bianco, con un suo fiocchetto, e con dentro lasciata anche un messaggio. E cosa c'è scritto? Ah, c'è una frase per questa persona. Quindi lei spera che il destino li faccia rincontrare questa persona, magari sì, nelle scale della metropolitana, in ufficio. Sì, io sono convinta che prima o poi io incontrerò questa persona. Sì, ma se la incontra con moglie, figli, bambini, nipoti, no, che no, fa? No, perché io sono aggiornata di questa persona, lui non lo sa, ma io lo so. Beh, lei è una stalker, però, scusi. Io... No, nel senso che non cioè, da lontano così... Lei gli mette in mano la rosa mummificata e se ne va? No. Cioè, gli darò questo e poi vorrei vedere il suo atteggiamento, e dopo gli chiederò di aprire questa scatola, di leggere il bigliettino e di dirmi le sue impressioni. Io trovo fantastico questo permanere di cocciutaggine romantica in certe donne. Su questo, ma non signor... non è cocciutaggine, perché mi accorgo che questa persona, sempre tutta, è una persona molto sola. Ma se sola aveva bisogno di lei, l'aveva cercata, scusi, se non l'ha mai cercata. Sì, è vero, però pensi che nella vita non si può mai sapere. No, guardi, un uomo quando sente l'odore di una donna e non ne può fare a meno, la cerca, scavalca le montagne, supera le barriere infuocate, fa di tutto. Se non l'ha mai cercata vuol dire che non la pensa. Se ne faccia una ragione, Bruna, dia retta. La rosa disseccata, se la tenga, se le piace, se no la butti via. È un cadavere come un cadavere ricordo di quest'uomo. Però io voglio aiutarla, Bruna, in questo momento, con ciò che ho a disposizione. Ben poca roba, ma penso che lei possa in qualche maniera giovare. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Sarà l'orgoglio della tua biblioteca! Alla romantica Bruna, che gira da un anno con una rosa mummificata nella borsetta sperando di incontrare l'uomo che gliel'ha data in cambio probabilmente di intima e fuggevole d'azione, io vorrei dare il libro, che è senz'altro utile, di cui mi separo con grande dolore, ma so che a lei servirà più che a me, 101 bugie che ci raccontiamo in amore e sull'amore, di Nadia Olinda, Newton Compton editore. È contenta, Bruna? Moltissimo. E questo l'aiuterà senz'altro. Ma spero. Però guardi, farò qualcosa che non ho mai fatto nella vita. Complimenti, hai vinto un libro infame. Colmerà il vuoto dei tuoi scaffali. Siccome penso che il caso di Bruna sia particolarmente disperato, mi è stato dato in questo momento da Fabrizio Intonti un secondo libro infame. Wow. Di Grazia Gavioli, Rosa Rose, che sembra fatto apposta per la sua fattispecie. Rosa lo deve leggere finalmente, invece che perdere tempo a cercare questo povero sfigato che le ha dato la rosellina. Non vado a cercarlo. Ma come non va a cercarlo? Vive soltanto per quello. Cioè, io aspetto e basta. Eh sì, sul greto del fiume aspetta che passi la salma di quest'uomo. Nel senso che io sono convinta che capiterà, per questo. Sì, ma capiterà, non gliel'auguro. Sul fiume ad aspettare che, o magari, no, io sono convinta che lo incontrerò. Però non è che faccio la mia vita per questo. Sì, ma la faccia intensamente la sua vita, vedrai che poi questa rosa disseccata la userà per accendere il fuoco e scaldarsi le castagnole. Arrivederci, Bruna. Rossana. Buongiorno Nicoletti. Eccomi. Buongiorno, allora la mia borsa è abbastanza capiente, però come oggi necessita a volte di una borsetta aggiuntiva. In pratica, nella borsetta aggiuntiva ho l'acqua, il navigatore, perché sono abbastanza imbranata con la macchina, sì. Un sacchetto con delle creme e un altro sacchettino con un mini necessaire, del quale non dico cose di cui già si è parlato, ma ho un magnifico liquido post vacanze contro le punture delle zanzare. Utilissimo, poi a marzo è la mano santa. Utilissimo, esatto. Poi ho un piccolo cacciavite per gli occhiali, perché io lavoro con gli occhiali, lavoro in un negozio di occhiali e quindi ogni tanto è stato utile a me oppure per i miei clienti, un piccolissimo cacciavite. Poi volevo dire che un altro microcosmo da scoprire sarebbe il portafogli delle donne. Ma lei che dice mini borsetta. Che nessuno dice, ma lo vedo scritto, lo spray al peperoncino, ce l'ha lei? Ah, stavo per dirlo. Ecco, è questo. Mi ha accolto, mi ha bruciato sul tempo. Stavo per dire che ho un magnifico spray al peperoncino che ho qua da 10 anni, non so se funzioni ancora. No, ormai è svanito. È svanito, ormai non ci può fare più niente. Ci guarda. Posso condire l'arrosto. Nemmeno forse. Nei casi più disperati può usarlo come rinvigorente, non serve a niente. Esatto. Poi nel mio magnifico portafogli, che è allo stesso tempo una mini pochette in quanto enorme, ho quel cosino di plastica che si usa per usare il phon nelle piscine pubbliche, che penso sia anche già scaduto. La chiavetta per usare il phon. La chiavetta di plastica, esatto. Sì. Poi ho una vecchia 500 lire da mettere all'interno dei carrelli della spesa, perché potrebbe sempre servire, se poi me la dimentico, almeno non ci ho smenato un euro o due, ma soltanto delle vecchie 500 lire. Poi si può tirare fuori 2 euro che ci ha messo quello prima, che almeno ci ha guadagnato. Esatto. Un piccolissimo portafortuna, che è un penny che avevo fatto schiacciare dentro a una macchinetta in Inghilterra, su cui c'è l'immagine del mostro di Loch Ness. Però è piccolissimo come portafortuna, direi che è un minimo ingombro all'interno della mia borsa. Una foto bellissima e direi indispensabile di me da piccola, all'interno del vicino alla patente. L'elenco degli indirizzi... Guardi, la sigla dice che lei deve smettere. Comunque, visto che è stata l'ultima, senza sigla, Le attribuisco un libro infame anche a lei. Non ho niente da dire, ma so come dirlo. Trattato ad uso del moderno opinionista. Avrà modo di descrivere ciò che ha nella borsetta, lo metterò nell'elenco libri infami, e quindi anche lei questa mattina avrà felicità. Devo dire, in sintesi estrema, non mi ha soddisfatto molto questa trasmissione. Mi immaginavo chissà che, ma da un certo punto di vista sono anche contento. Non c'è nulla di ciò che mi sono negato che valeva la pena di essere scoperto. Quindi è una soddisfazione in più. L'unico segreto alle donne che mai ho desiderato violare in realtà non nascondeva nulla che mi lascia il desiderio in bocca di assaporarlo. Ci sentiamo lunedì. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.